vieni a parlare di me, Capitan Canaria. E grazie a Dio, Capitan Canaria, che parli male di me, brutto pezzo di merda, che imbecille ignorante, testa di cazzo. Vieni a parlare di me, cazzo di conosci, brutto pezzo di merda, che parli male di me, parli tu, maniaco pidocchio di merda. Di 14 anni tanto. Cani, Dio, cani. Maledetto bastardo. Ringrazio Dio. Altrimenti ti taglio la testa, brutto bastardo. Ringrazio Dio che non sei qua davanti a me. Capitan Canaria. Vieni a parlare di me.